Capitolo 9. Dengue, dengue, dengue. Febbraio 2019, giardino incantato. Entro in un mondo sconosciuto. Il mio cervello si trasforma in un viaggio psicotropico, cucinando i neuroni con la febbre. Il corpo non risponde agli stimoli, perché sembra che dei nanetti irrequieti stiano staccando tutti i nervi uno dopo l'altro, dal bacino verso l'alto, uno per uno. Mi avevano raccontato che il dengue è una malattia tropicale, come ce ne sono molte altre, per non parlare poi dei parassiti e delle malattie ancora senza nome. La notte passa tra intermezzi di freddo, sudore e dolore. Mi sento impotente di fronte a tutta questa sofferenza. Il corpo è lacerato dalla temperatura e dal virus. La mente vaga nelle ipotesi di un futuro catastrofico, nella solitudine del dolore. Il mio compagno di avventure sì mi aiuta, ma sembra che sia sempre distratto da altre cose della vita. 3 febbraio 2019. Giardino incantato. Ho dialogato a lungo con il dengue. Proprio mentre mi contorcevo, mi spiegava con pazienza che il dolore lo dovevo sentire e non dovevo scappare. Mi ha fatto vedere che la violenza che subiamo nel corso della nostra vita, dalla famiglia in poi, si ripercuote nel senso di colpa che ci ingabbia e che questo senso di colpa influisce ogni giorno sulle scelte che facciamo. L'unica maniera per fermare questa corsa alla sofferenza autoinflitta è tagliare queste catene che ancora ci rendono vittime volontarie del nostro stesso senso di colpa. Non siamo colpevoli. Qualsiasi cosa sia accaduta nel nostro passato. Febbraio 2019. Giardino incantato. Il dengue se ne va in silenzio. E come ha saputo fare anche il mio compagno di avventure, il principe azzurro che ha svanito nel nulla. Ieri pomeriggio era uscito e mi ha lasciata sola, mentre ancora la febbre mi stava mangiando le parti molli del cervello. È ritornato a casa quando ormai si era fatta notte, ubriaco fradicio. Mentre io già vagheggiavo parlando con Ursula seduta di fronte a me e con il saggio Melchiade in piedi a guardarmi. Al mattino poi, con la testa ormai libera dai virus, gli ho parlato. Gli ho messo in mano una banconota e gli ho chiesto gentilmente di andarsene dalla mia vita, dalla mia casa e dal mio mondo. Non ricordavo che potesse fare così male il perdere, tutto ad un tratto, la fiducia non solo nella persona che dichiarava tutto il suo amore per me, ma anche per l'essere umano, nelle sue diverse forme. Rimangono i gatti a visitarmi e cercare le loro dose di carezze. Il gatto Ciuccio dorme con me per non farmi sentire quella solitudine propria dei numeri primi. Febbraio 2019, giardino incantato. Parlo a lungo con Licia, la padrona di casa, mentre cerco di rimettere a posto la mia vita ed il mio corpo che sta giocando ad un Tetris impazzito. Lei, mentre allatta la bimba, mi guarda duramente negli occhi e mi dice che alle volte le persone si meritano una seconda possibilità. Guardo Cesco, suo marito, che appende i pannolini di stoffa della bimba ad asciugare al sole in giardino, mentre alcuni giovani del villaggio stanno imparando sotto ad una tettoia tra galline e gatti ad aggiustare biciclette. Quindi forse, ma dico forse, è possibile. È possibile incontrare una persona e crederci tanto che si può arrivare ad un equilibrio, a camminare assieme, mano nella mano, nuotando nel complesso mare della vita e delle decisioni da prendere tutti i santi giorni. Domani vado in montagna, che come mi ha insegnato mio padre e come dicono anche gli amici di qui, con il freddo si uccidono tutti i virus. Cambiare aria fa sempre bene. Scarpe e zaino sono pronti. Febbraio 2019, ostello di Doña Vicenta. L'universo, con la sottile ironia che lo contraddistingue, rimette lungo il mio cammino proprio la persona che avevo mandato via, lontano da me. Ironica ironia. Arrivo all'ostello di Vicenta che sta facendo buio. Prendo possesso della stanza di sempre e dormo, finalmente senza la paranoia delle zanzare e degli altri tipi diversi di dengue che mi potrebbero infettare. Con il primo caffè del mattino la sorpresa. Anche lui è qui. Amanesiste bien, signora? Ecco, colpo di scena. Ci guardiamo negli occhi, ci sorridiamo dell'amore che ancora sentiamo, quello camuffato da odio e rancore per gli ultimi avvenimenti che ci sono accaduti. Parliamo a lungo, mentre il vento accarezza i boschi, e ci scusiamo delle nostre colpe, ci perdoniamo dei nostri peccati. Poi si sa che la vita è una bizzarra ruota della fortuna. E lui si sveglia il giorno dopo, febbricitante, con tutti i dolori del dengue addosso. Così, un giorno senza vento che mi obbliga a stare chiusa in questo nuovo spazio tra le montagne, mi rendo conto che scappare dai miei doveri è inutile e anche dannoso. Così, oltre a lavare piatti e calzini, adesso sono stata promossa al rango di infermiera volontaria. Non per questo mi ritiro dalla battaglia. Sono cosciente che ciò che deve accadere, accade. Così si ripete il tempo quando gira attorno a me e si riproduce uguale a se stesso. Nei 100 anni di solitudine che mi spettano ancora in questa vita. Febbraio 2019, ostello di Doña Vicenta. C'è da rendersi conto che alle volte la vita non è fatta per costruire rapidamente grandi progetti. Il tempo ci insegna che è meglio prestare attenzione alle piccole cose, quelle che facciamo ogni giorno attraverso i pensieri d'amore che lanciamo al mondo, seminando e coltivando il nostro cibo. Abbiamo bisogno di contadini, di gente che sappia fare il pane. Abbiamo bisogno di gente con il cuore grande, che non abbia timore di aprire le porte di casa agli sconosciuti. E invece, tutto attorno a noi serpeggia la paura. La paura a confrontarsi con gli altri esseri umani. Perché c'è stato un tempo in cui qualcuno se ne è approfittato delle nostre debolezze e solo per il gusto di fare del male. Però, tutte le volte che facciamo del male agli altri, lo facciamo anche a noi stessi. E l'entropia del mondo ritorna ad un equilibrio fisico stabilito. Quello che fa in modo che, come un elastico, tutto ritorni indietro, bello o brutto che sia. Karma istantaneo o sulla larga distanza. Ma in fondo qualcosa di positivo accade quando seminiamo amore. 11 febbraio 2019, ostello di Doña Vicenta. La convivenza con il mio ritrovato compagno di avventure mi ha fatto decidere che è arrivato il momento di andare via, lasciare il paradiso e andare a vedere il mondo. L'amore che provo per la vita è grande e sembra che il mio cammino sia punteggiato dei sì e dei no delle altre persone nelle loro esistenze. Non posso scegliere per gli altri, però posso decidere per me e per quello che sento di fronte a questo prodigioso spettacolo che è la vita. Dove i momenti di oscurità si alternano all'indefinibile gioia, la gioia di vivere, quella di quando non mi domando il perché, ma respiro e godo e basta. Prendo coscienza che sta per cominciare a correre tutto molto in fretta. Ho una casa intera da svuotare e da far entrare in scatole e borse, da nascondere poi nelle abitazioni di chi resterà nel paraiso. Con la coscienza che gli uragani, gli incendi ed i traslochi potrebbero far sparire la mia grande valigia a fiori da un momento all'altro. Poi, con quello che mi rimane, riempire uno zaino leggero e andare. Senza perdere questo equilibrio, questo sorriso e la tranquillità acquisita, con la coscienza che sono umana, nelle mie voglie e nelle innumerevoli necessità inesistenti. La decisione è arrivata tra queste montagne, rapidamente, senza avvisare. Andare, camminare con quest'uomo che è entrato nella mia vita. Con lui sto bene, con lui sto male. Con lui cresco giorno dopo giorno. Lo amo, questo lo so, ma ne sono innamorata. Ed è davvero tanto importante il fatto di essere innamorata o meno. Mentre ascolto questi pensieri rimbombare nel cervello, guardando l'orizzonte di alberi che si muove come fosse mare, Doña Vicenta mi chiama dalla sua cucina, offrendomi un tè caldo e fumante, mentre mi guarda con attenzione cercando di intuire quali siano i miei progetti. Prendo una pausa dal paradiso. Vado a vedere il deserto del nord, le dico, mentre mi sorridono gli occhi e anche l'anima.